A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Lo Stato non ha paura delle nuove BR così come ha sconfitto le vecchie BR. E lo Stato farà lo Stato, perché il treno a alta velocità Torino-Lione è un'opera strategica e noi non possiamo consentire a delinquenti di impedire la realizzazione di quest'opera così importante. Davvero le BR accanto ai movimenti NOTAV? Attentati ai cantieri della Valsusa, un pacco bomba in grado di ferire e molto recapitato ad un giornalista che racconta le proteste e quell'invito a fare un salto di qualità rivolto al movimento dalle celle degli ultimi brigatisti arrestati. Si rischia davvero questa saldatura? È questo che fa temere anche l'accusa di terrorismo contestata a diversi membri della galassia che si oppone al treno alta velocità Torino-Lione? E poi, l'attuale crisi economica può davvero evocare una delle pagine più drammatiche della nostra storia? Scritte con la stella a 5 punte inscritte in un cerchio sono apparse contro Enrico Letta e Laura Boldrini. Sono davvero le BR? Con questi interrogativi, pesanti come il passato che richiamano, con questi fantasmi spaventosi perché mai davvero svaniti, entriamo allora all'interno del mondo di chi ha davvero pensato di riportare in vita quel simbolo e quell'incubo chiamato Brigate Rosse. E per rispondere alle domande e alle paure di oggi ripartiamo da lì, da quello sterminato archivio di via Montecuccoli trovato dopo l'arresto degli ultimi eredi di Moretti & Company. Lì si racconta l'ascesa e la caduta del gruppo, da lì possiamo dire che ci sono nomi ancora non identificati. Da lì scopriamo che c'erano obiettivi non svelati in sostituzione di Massimo D'Antona e Marco Biagi uccisi nel 1999 e nel 2002. E proprio lì entriamo, allora. Entriamo dentro le BRPCC, titolo del manuale per i caratteri Laurus, scritto da Antonio Petrillo, vicequestore della Polizia di Prevenzione, uno degli investigatori che dal Servizio Centrale Antiterrorismo ha arrestato nel 2003 Nadia Lioce e il suo gruppo. 10 anni dopo, quando nuove paure si affacciano, è lì che allora bisogna cercare le risposte di oggi, in quel mondo delle cosiddette nuove brigate rosse, fin troppo reclamizzato, obietta Petrillo. Spesso si usa questa locuzione anche per definire dei gruppi, delle organizzazioni che, pur avendo una matrice marxista-leninista, non si riferiscono in realtà al patrimonio ideologico brigatista. Le brigate rosse guidate da Nadia Lioce e Mario Galesi possono a pieno titolo essere definite nuove brigate rosse, avendo fatto riferimento al patrimonio ideologico delle brigate rosse storiche. E invece quegli altri gruppi che anche negli anni successivi sono stati scoperti, quegli arresti che anche successivamente ci sono stati a partire da indagini milanesi. Intorno ai primi anni 80 ci fu una scissione che portò alla creazione da un lato delle BRPCC, Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comunista Combattente, che erano per intenderci le eredi dell'ala militarista di Moretti. Certo. Dall'altro lato ci fu invece un'organizzazione che si ispirava a criteri più movimentisti e quindi aveva un approccio più partitico. Da questa frizione originaria abbiamo poi, come dire, la difficoltà ad inquadrare le nuove organizzazioni nell'una o nell'altra esperienza. È questa ala in origine più movimentista quella che è sopravvissuta numericamente di più? Possiamo dire che negli ultimi anni abbiamo avuto esperienza viva di entrambe le fazioni. Certo, i gruppi movimentisti che sono per natura, diciamo, più portati ad avere un contatto sociale nei movimenti, hanno maggiore visibilità e forse maggiore fluidità. Entrando appunto un po' nel dettaglio di quello che loro stessi raccontano, riprenderei le dichiarazioni di la compagna So, ossia Cinzia Banelli, quella che è stata la pentita di questo gruppo di terroristi, che in una dichiarazione dice: penso che le BR un giorno possano tornare ancora, non oggi né domani, ma un giorno, questo quanto è possibile. Mi affido ad un dato esperienziale. Oggi potrebbe sembrare un po' come negli anni 90, che il terrorismo non ci sia più. Poi la storia italiana ci ha insegnato che il terrorismo è come un fiume carsico, a un certo punto sparisce, poi riemerge all'improvviso. L'unica cosa che mi sento di dire è che dobbiamo trarre degli insegnamenti dalle nostre esperienze passate e non dobbiamo abbassare la guardia. Un fiume carsico che si inabissa per poi rispuntare, improvviso e inatteso. La storia del terrorismo in Italia questo racconta, avverte uno degli investigatori più impegnati e più presente su questo fronte. E questo diceva anche una delle componenti dell'ultimo gruppo davvero brigatista smantellato, la pentita Cinzia Banelli, la compagna So. Ma la domanda è: dove si nasconde ora questo fiume carsico? E poi possono esserci contatti con quei nomi che ancora mancano all'appello, con quelle sigle mai identificate dell'organigramma brigatista? Almeno tre, quelle non individuate, ammette il vicequestore Petrillo, che però tiene sempre molto forti certe distinzioni. Mi sentirei di distinguere in maniera molto netta fra terrorismo ed estremismo, antagonismo o conflitto sociale. Fenomeni diversi da tenere distanti, eppure però alcuni di queste aree, diciamo, delle nuove Brigate Rosse, che anche di recente dal carcere hanno mandato dei messaggi, come definirli, anche con delle suggestioni, con degli inviti a fare salti di qualità rispetto anche al movimento NOTAV. Questo tipo di messaggi come devono essere considerate? Credo che queste dichiarazioni debbano essere prese per quello che sono, cioè delle dichiarazioni rivolte ad un mondo esterno che può darsi non esista, però, che possa esistere solamente nell'immaginazione di coloro che le hanno fatte. Sicuramente, ma infatti per questo io prima le chiedevo se in qualche modo in origine, a proposito dell'ala anche movimentista, potesse essere più numerosa rispetto a quella più elitaria, come lei stessa l'ha definito, e che anzi viene definita un cenacolo di disperati. La definizione cenacolo di disperati rappresenta perfettamente la realtà delle BR di Nadia Alioscia e Mario Galesi e del prefetto Franco Gabrielli, che all'epoca dirigeva la DIGOS di Roma, ed è una definizione che dà il senso preciso della loro consistenza numerica e al tempo stesso del destino di morte che li attendeva. E anche della loro ossessione ideologica, certo. E nella natura delle cose che se si ha un approccio movimentista si possa avere un maggiore riscontro a livello di adesioni. I nuovi brigatisti che noi abbiamo arrestato nel 2003 erano 15, 16, di questi numeri stiamo parlando, ma no, questo però non ha impedito loro di produrre dei morti. Il suo racconto è in gran parte concentrato nell'analisi soprattutto di questi documenti che sono stati trovati, un archivio di 183.690 file. Ecco, archivi così numericamente significativi, tutti in una volta, ricordo male io o non ce ne sono stati? Non ricorda molto bene, in realtà 183.690 file equivalgono a milioni di pagine, questo per intenderci. Mai in precedenza era stata acquisita una simile mole di informazioni. Ecco, tutto quel materiale, unitamente al contributo della pentita Cinzia Banelli, certamente ci ha fornito la possibilità di ricostruire la storia politica, militare e anche umana sotto certi aspetti dei nuclei comunisti combattenti, ovvero le nuove Brigate Rosse di Nadia Alioscia e Mario Galesi. Quei documenti e le dichiarazioni della compagna So, della pentita di Cinzia Banelli, hanno permesso anche e soprattutto all'epoca poi di identificare anche tutti i tasselli o quasi tutti i tasselli di questo cenacolo di disperati, persone che in questi documenti sono indicate con dei nomi di battaglia, ma in tutto questo elenco mancano ancora due nomi, due identificativi, MS e DO. In che contesto vengono citate? Che ci siano delle sigle o dei nomi di battaglia di brigatisti emersi nei documenti e che non sono stati associati a singoli imputati è un dato processuale. Quindi è un dato processuale che ci siano alcuni militanti delle Brigate Rosse che siano sfuggiti alle condanne. Ora, le due sigle non sono le sole, ne esistono anche delle altre, ma sono molto probabilmente militanti di rango non elevatissimo, o magari usciti dall'organizzazione prima degli arresti. Non si tratta di soggetti con un profilo di leadership. Quante sono le sigle a cui bisogna ancora dare un nome? No, i numeri sono 2, 3, questo dico, e poi è chiaro che si può discutere se sono 4, se sono 5, se sono 3. Noi avevamo di fronte delle persone maniacali sotto certi aspetti, in più circostanze alcuni militanti hanno cambiato sigla, per cui hanno cambiato nome di battaglia, avevano oltre ai nomi di battaglia dei nomi di copertura tattica, quindi soffermarsi sul numero delle sigle può essere fuorviante, perché qualcuna potrebbe combaciare con un'altra, per intenderci. È sicuro che almeno due o tre non sono state associate, questo sì. Queste due o tre erano, almeno MS e DO, erano in qualche modo operativi ai tempi dell'omicidio D'Antona, però potrebbero essere persone che erano uscite prima di quell'omicidio, forse perché in contestazione con quella decisione di quel delitto, oppure non erano parte, diciamo, di un livello decisionale così alto. La sigla MS è sicuramente contemplata in molti documenti riferibili alla pianificazione dell'omicidio D'Antona. La sigla DO è invece una sigla che è probabilmente da associare a un militante fuoriuscito dall'organizzazione prima. MS e DO, dunque. Almeno due brigatisti attivi ai tempi dell'omicidio D'Antona mai rintracciati. Vanno anche in questa direzione le indagini mai interrotte sul terrorismo, perché, come spiega il vicequestore Antonio Petrillo anche nella seconda parte di A ciascuno il suo, pure le armi non sono mai state trovate e poi anche i gruppi più movimentisti possono essere davvero molto pericolosi. Cospito Alfredo alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione. Gai Nicola alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione. È stata contestata l'aggravante del terrorismo anche ai due anarchici condannati per aver gambizzato a Genova Roberto Adinolfi, l'amministratore delegato di Ansaldo Energia, come l'aggravante del terrorismo è stata ipotizzata a Torino nelle inchieste sui sabotaggi, gli scontri e gli attentati intorno alla TAV. Sigle molto diverse, storie molto differenti, vicende a cui però guardano dal carcere anche gli ideologi delle cosiddette ultime Brigate Rosse, quel gruppo individuato dalla Procura di Milano mentre organizzava attentati contro Pietro Ichino. Anche se le origini sono lontane e diverso è il mondo ideologico di riferimento, anche in questi mondi è possibile trovare tracce di quella lotta armata teorizzata dalle versioni rossa? Le risposte sono nello studio del più grande archivio mai trovato delle BR, quei 183.000 file recuperati in via Montecuccoli dopo l'arresto di un irriducibile come Nadia Lioce e del suo gruppo che ha sparato contro Massimo D'Antona e Marco Biagi. Da lì si scoprono anche le indagini alternative che i brigatisti avevano avviato contro altri obiettivi. Da lì si ha la conferma che nuovi nomi mancano di quel cenacolo di disperati, espressione con cui l'allora capo dei servizi segreti Franco Gabrielli indicò i brigatisti. E da lì allora ripartiamo dallo studio di quelle comunicazioni portato avanti dal vicequestore Antonio Petrillo del Servizio Centrale Antiterrorismo e con lui torniamo dentro le BRPCC, esplicito titolo del suo saggio, una decodifica filologica degli scritti dei brigatisti. Loro la chiamavano inchiesta, in pratica un'attività di osservazione o di verifica dei dati del soggetto che veniva attenzionato, per usare i loro termini, e poi successivamente l'inchiesta avrebbe potuto avere uno sviluppo con pedinamenti e quant'altro. Nel caso del professor Padoa-Schioppa ci fu un'inchiesta sull'abitazione, questo emerge da un documento che riporto anche nel volume, nel libro, ma per quanto insomma, ci consta, ci si limitò a quello, non ci fu il passaggio ad una fase successiva che è quella del pedinamento, di cui purtroppo furono protagonisti sia il professor Biagi che il professor D'Antona. E questo nei confronti di Padoa-Schioppa fu l'unico caso di una prima, di inizio di un'inchiesta o ci sono stati altri obiettivi? Per azioni di più basso profilo sicuramente ce ne sono stati anche degli altri, per azioni diciamo di natura, come la chiamavano loro, disarticolante, quindi per intenderci omicidi, non ce ne risultano delle altre, se non soggetti che erano, sempre per usare i loro termini, stati presi in considerazione in alternativa al professor D'Antona o al professor Biagi. Cioè quindi eventuali persone che dovevano essere obiettivi appunto in sostituzione di professor D'Antona e Biagi, mentre anche soltanto come primo stadio di raccolta di informazioni, quello di Padoa-Schioppa mi sembra di capire che non fosse l'unico caso, giusto? Non era l'unico caso, però poi si fermavano, nella maggior parte dei casi abbiamo un archivio che si ferma a questo tipo di informazioni, quindi da questo quello che a noi risulta non c'è stato uno stadio successivo, ecco, questo è quello che possiamo dire. Questo è quello che questo archivio, che è la principale fonte di informazioni, ci permette di dire. Questo archivio, visto nel suo insieme, e lei lo analizza con grande precisione, che cosa ci fa dire come principale elemento di differenza, se c'è, o di similitudine, se c'è? Chiaramente similitudine c'è nei fatti, rispetto alle Brigate Rosse dei tempi di Moretti. Sotto il profilo della continuità oggettiva, ideologica, di patrimonio, di riferimento, differenze non ce ne sono. È ovvio che le differenze sono nella consistenza numerica, organizzativa, nell'esperienza di questi nuovi brigatisti. È ovvio che non possono essere paragonate le situazioni. Una cosa erano le BRPCC ai tempi di Moretti, prima ancora le Brigate Rosse, una cosa a livello proprio di consistenza organizzativa erano queste. Cambia tutto, perché i numeri sono completamente... E certo, la prima cosa è soprattutto una differenza numerica, però in qualche modo si poneva nel problema del reclutamento anche gli eredi, diciamo, quindi queste nuove Brigate Rosse? Certamente, il reclutamento è un'attività che hanno operato anche loro con esiti molto più ridotti rispetto al passato, perché appunto i tempi sono diversi, ma loro operavano forme di reclutamento all'interno di ambiti amicali o sociali. La maggior parte di questi brigatisti erano veramente anche amici tra di loro o cresciuti insieme. Potrebbero esserci ancora degli arruolati a questo cenacolo di disperati che ancora non sono stati identificati, che sono ancora fuori da qualche parte, anche se casomai con ruoli diversi e non così importanti, insomma delle persone vicine a quel mondo, oltre a quelle delle sigle che abbiamo già detto, che ci sono ancora da qualche parte? Sicuramente avevano degli amici, avevano delle persone a cui erano molto legate, da qui a dire che queste persone ne abbiano condiviso le scelte, io non me la sentirei assolutamente. Quindi non solo che non erano brigatisti, e questo anche dire, sennò, ma addirittura che ci fosse una condivisione o una conoscenza, e neanche questo mi sentirei di dire. Quindi certamente quelli che sono stati individuati, condannati, tra di loro, molti di loro erano amici, avevano avuto un'esperienza di crescita comune, e questo è un dato significativo. Questo archivio è stato trovato in via Montecuccoli, ci sono stati altri ritrovamenti, le carte che avete analizzato vi dicono che possono esserci dei covi non ancora conosciuti? No, questo lo studiamo. Mentre ci sono tracce di un arsenale della Lioce e di Galesi che, se non sbaglio, non è stato mai trovato. È un dato fattuale, le armi dei brigatisti non sono mai state rinvenute, è un dato che dobbiamo tenere in considerazione. I documenti ci permettono di ipotizzare da che tipo di armi possa essere composto questo arsenale? Un documento che addirittura si chiama classificazione, quindi questo è il titolo del file che avevano attribuito loro. Abbiamo quel documento e lì abbiamo l'idea precisa di cosa vi sa. Quando ci furono gli arresti, insomma l'inchiesta per intenderci, che partì dalla procura di Milano, alcune armi furono anche trovate interrate. Si pensa che l'area movimentista possa essere meno pericolosa, è solamente una diversa scelta in ordine a come praticare la lotta armata, ma che l'obiettivo sia quello vale per le BRPCC come per le organizzazioni movimentiste, quindi anche loro avevano la differenza che lì le armi sono state rinvenute e sequestrate, non erano poche neanche lì, il fatto che non le avessero ancora usate non toglie però... La congiuntura attuale, quindi i tempi di crisi, i tempi di proteste, in qualche modo può favorire un reclutamento per queste aree estremiste che però poi arrivano fino ai livelli più gravi, cioè quelli del terrorismo? Linea puramente astratta potrebbe essere così, però non credo anche qui sia un po' fuorviante ridurre tutto a un discorso di crisi o di sofferenza sociale. Indubbiamente questo può incidere, però. Questo mondo invece che lei racconta era un mondo che prima di avviare una qualsiasi azione era meticolosissimo nella preparazione, ad esempio anche nell'autofinanziamento. Tutti i documenti lo dicono in modo chiaro, in modo esplicito, le classiche azioni come quella di assalto alle banche, bancomat, matto ai portavalori, anche storicamente dovevano servire per finanziare il gruppo. Ebbene, lei però racconta anche di un episodio come quello delle indagini sulla rapina di via Radicofani, quando fu arrestato Mario Galesi e quando però, nonostante il ritrovamento pure di materiale di aria antagonista, quelle indagini non furono passate alla Digos, quindi a quel gruppo, diciamo, di investigatori che si occupa di questo tipo di reati che hanno a che fare col mondo dell'eversione. La mia domanda è questa: c'è il rischio che in una fase come questa, in cui il terrorismo non è più la prima preoccupazione, c'è un rischio di sottovalutazione di episodi come assalto ai portavalori o rapine? Il rischio ci potrebbe in teoria essere, ma noi abbiamo un ruolo ben preciso, che è quello appunto di valutare le cose che capitano. Io credo che un effetto dell'errore commesso all'epoca si credeva estinto il fenomeno del terrorismo. Tutto questo archivio, tutto ossessivamente catalogato, racconta proprio più di qualsiasi altra cosa di questo cenacolo di disperati, anche per il livello di comunicazione che loro avevano. Allo stesso tempo però dovevano in qualche modo necessariamente affidarsi alla tecnologia. Tecnologia a cui ricorsero anche per le rivendicazioni degli omicidi D'Antona e soprattutto dell'omicidio Biagi. Questo può essere considerato un errore? Non credo che si possa parlare di errori strategici in questo, perché nel momento in cui utilizzavano la tecnologia per le rivendicazioni, loro non hanno lasciato tracce, sono stati anche molto bravi. Il progresso vale anche per noi, vale anche per le forze della controrivoluzione, come ci chiamano, no? Perché la polizia così viene definita. Certo. Per cui sono stati sconfitti grazie al sacrificio del sovrintendente Petri e grazie appunto ad una tecnica di ricostruzione delle schede telefoniche prelegate, quelle che vengono utilizzate dai telefoni pubblici, per intenderci. Vogliamo fare un ragionamento un po' più di natura generale. Forse quello che li ha fatti perdere è la loro stessa ideologia, che non è forse più un'ideologia sentita e forse può essere considerata superata, forse. E a voi spaventa una minaccia terroristica? La credete possibile? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!